Somali! E chi è? Buonasera, certo che andiamo bene. Oddio, e se sono questi in mezzo alle scatole, e dove siete? Su 10 sono. No, qua sono. Ma sono io, a me mi arrivano forti, Sono due parlando fra di loro, sono da fuori. Ah, dimmi, le piace. Adesso li ho sentiti bene. Penso che sono fuori, boh. Fuori, c'è l'avvocato che sta ascoltando. Ma prima era in FM, e poi sono passati in AM. Ogni tanto dava un colpo importante, ma ora non si sente, non si vede. Boh. Adesso li ho sentiti. Arriva forti, cazzo, salta con robe. Cazzo, uno arriva, salta con robe, 9, 10, una cosa del genere. L'altro è più basso. Allora, c'è un esempio che... Quello che è più lontano. Andate. Sapete quello che gli abbiamo fatto di buon lui. Tutino. Allora, già ti sento a lui adesso. Penso di sì. Arriviamo buon lui, non ti preoccupare. Cazzo. Cazzo è forte quello là, l'altro è molto più basso, però uno arriva fortissimo, cazzo. E allora, è arrivati? Ieri non c'ero. Non c'ero, ero in giro. A prendere tutti? Ah, fammi un giro se ti scendo, piglia un poco d'aria. Hai fatto bene, cazzo. Ma è stato chiuso subito, le 7:20 ho chiuso, cazzo, una misera maculare, ma nemmeno niente, non c'era nessuno. Ehi, vabbè, non va a cominciare ad entrare, qualcuno. Quelli non si sentono più però adesso, Dove facciamo il mollato? Evidentemente sono stati, vuol dire che rientravamo anche noi. Sì. Come entrano loro a noi, noi entriamo a loro. Infatti, la propagazione così, cazzo. Antoni c'è la propagazione, Antoni no però. Però oggi invece pare che ha propagazione, perlomeno. È già 10 minuti qua acceso. E c'erano sempre qui. Sì, un po' la propagazione oggi c'è. Deve essere forte pure. Vabbè, ancora il tempo buono, so. Ancora il tempo è propizio, va. Fate così. Fate così, tocca a fare così, tocca a fare. Caro figlio. Caro figlio, via. E vabbè. Cazzo, brava allora. Come ti piace cambia? Cazzo, altro diversamente che si può fare. Ah. Se diverso non si può fare. Può fare no. Magari possiamo fare, ma non si può fare niente. Per cui lasciamo andare così, come tre piante cambia. Tanto che c'è ragione. Via. Per carità. E vabbè. Cazzo, Manuela si è sentito più. E mi lascio impiegato di vedersi. Io ho già durata lì, ero passato in macchina, io ho un rugani. Ammassonato. Ehi, grande libari da gira, E ogni tanto passai il tabacco pure. Ogni tanto già sono quando vedi che faccio la macchina. Tiro per la macchina non bisogno più, ma tiro per la macchina non bisogno più. Allora sono e si andò a un bottone di farina, va. Infatti. Vediamo. Ma suonato, degli arritelli. Ma mamma te cosa mi ha detto? Passato dritto. Non credo, no? Facciamo il caraggiauso, ma è una cosa troppo. ragazza non si può scendere, perché anche tutto si mettono a chiacchierare con lo figlio di lavorare di madre, per cui a me non mi viene bene a scendere. Fate così, purtroppo. No, poi così non ci potremmo fare nulla. E vabbè, se fa intendere è buono, se no noi già siamo in ordine. E anche loro sono impegnati, anche loro stanno questo lavoro con ricerca un po' paloso. Di solito lavorano anche di notte, per la maggior parte, capito? E sono sempre impegnati. Se vuole entrare già siamo qua noi, se no pazienza. Ho figurato, eccoci qua. E allora, che freschetto, di no? Sta bene Giovanni, non si sta bene, quindi ha voglia. Andare. Il giorno fa caldo, la sera magari si fresca un po', dai. La sera c'è un po' di freschezza, va bene, anche la notte non è più quel caldo maledetto, capito? Da riesce a c'è pure la notte. No, ci sta bene la notte, sino che dura, ma si fa diverso. Questa sera mi sono col caldo un pochettino, anche era caldo, e mi sono acceso la ventola, fino a po' caldo, certo. Era caldo, Sì. Vabbè, finché dura facciamo durare. Poi? Ah, ma già, tu già è male, già. Andiamo. Sì, è male, per cui faccia come vuole. E per cui... male farà caldo ancora, E a voglia pure. Settembre non è tanto facile. Si può fare. Che forza. Mi sa che devo tornare in altra gabbia, che c'è peggio da antennare un televisore. E gara duia. No, quella del condominio. Ah. Cazzo. Molto si può. Ci ha visto la tortola per stargli del successo, no? Sì, adesso guardiamo a vedere, no? Ho incogliato che ha detto mia moglie che era pigiata, non lo so se si è troncata o se si è pigiata, allora devo cambiare il tubo. E ho detto, gli ci ha visto la tortola per stargli del successo, no? Sì, dalla bottola, già è vicino ad andare a arrivare con l'antenna lì. Oh. Devi aprire la porta le stare del successo, senza tagliare i deuli però. No, già sono nuovi i deuli. Devo arrivare all'antenna e poi devo portare mazzetta, scarpello e togliere tutto il cemento e togliere il pezzo del tubo da dentro. Tagliare un bullone di ve e mettere il tubo nuovo. Ah, ecco, l'antenna del condominio. Ecco, sta qua, perché tu con te tu ce l'hai l'antenna, e più sei quello del condominio. Ce l'ho il condominio, e più ce l'ho anche del condominio, l'hanno voluto aggiustare. Beh, sempre meglio averla disponibile, no? Almeno se si guasta una c'è l'altra. E infatti, io vedo che è pigiata. Ma che so, ma si vede a tutta la crisi, si vede a fare con che si paga fatto. Allora, ma che anni c'è questo po'? Sarà tutto fratto, questo po', che sia? Io sono dubbio che da quando hai fatto il barazzo. Ah, ecco. L'hanno messa direttamente a loro. Ah, ecco, la sicura l'hanno messa a loro, vuol dire? L'hanno messa a loro, l'hanno messa. Poi noi abbiamo cambiato le antenne e cose abbiamo cambiato due anni fa. E la centralina dove ci la mette? Dentro sulla scala oppure sul tetto? No, è sotto il tetto. Sotto il tetto attaccata al pilastro. Ah, ecco. E dove ci avevo messo? proprio sotto l'antenna, perché uno un muretto l'ho fatto apposta, allora, e lì hanno messo la centraliera, che è una cassettina di plastica, e la centraliera dentro, noi abbiamo già cambiato due volte, allora, ultimamente me l'ha cambiata Vittorio Giove, l'antenna e la centralina. Oh, noi 2 anni fa abbiamo cambiato le antenne e la centralina, abbiamo cambiato. Bene, se è stato il tetto è migliore, invece la rossa proprio devi salire sul tetto e cambiarla, capito? Mentre voi chiaramente è sotto il tetto e per cui viene più bene a cambiarla. Sì, infatti. Adesso guarda a vedere, se trovo qualcuno la faccio cambiare da qualcuno, se no. Pure la si trova, però bisogna che sappia cosa fare, capito? Perché lì di solito un tecnico c'ha un attrezzo e la puntano con l'attrezzo che c'hanno, capito? Per avere una ricezione perfetta. Infatti, vuole dritta, vuole. Prende lo stesso, si vede bene lo stesso, solo che è cuccata. Ma il fatto è questo, che adesso è diverso di prima. Prima, anche se io ricevevo senza antenna, hai capito? Avevo l'antenna, ma certe volte la distaccavo e si vedeva ugualmente. Perché adesso con l'antenna digitale c'è l'antenna proprio di niente. No, questa è puntata lo stesso, solo che è cuccata. Ecco cosa è. Però prende lo stesso. Sì, ma sto dicendo, per mettere la dritta proprio a puntarla sull'antenna di Monteoro, ci vuole la... si può puntare l'occhio qua, però di solito i tecnici hanno un attrezzo e con l'attrezzo la puntano perfettamente, capito? Ma basta puntarla di fronte all'antenna, si vede da noi l'antenna. Sale sul tetto e si vede. Quindi non ce n'è bisogno neanche. C'è un agghiacciato, la vostra giamba. Ecco cos'è, io non mi vedo più la tazza a sopra. Vai fatto. Qualcuno si trova là. Qualcuno che ha la pazienza, che se ne intende come fare, come collegare i figli, eccetera. Per cui poi se ci vuole il tubo nuovo bisogna buttare e murare di nuovo la stampa, così è. Sì, infatti, se riesce a fare alcuni di fare giù un dubbio e guarda vedere se trovo qualcuno a farglielo cambiare e voglio pagherlo. Buonasera, buonasera a tutti, sono entrato a salutarvi. Sì, buonasera a tu, mi hai sentito dopo di tanto. Avanti Giovanni. Ok, tanto a sempre piacere, saluti, vai, ogni tanto fa piacere, vai. Bene. Sì, a capo, sono col bambino, sono col bambino adesso, e via. No, Gabriele, non tirare il microfono. Lo so, vuoi parlare anche tu. Adesso ho detto, vabbè, l'ho sentito, ho detto, adesso vi saluto, dai. Zitto, che devo parlare. Dai, continuate che io vado a fare il bagnetto al bambino, ok? D'accordo, Antonio, ciao, saluto il bambino, ciao, bacio a parte nostra, dai, buon proseguimento, faccio. Ciao Antonio, ci risentiamo alle prossime, ok? Da un salutino al bambino anche, ciao. E così Antonio. Ogni tanto qualcuno di dentro ha salutato tutto, mi ha fatto piacere. Non si è sentito quello della Serafino, quello della Marina di Vicina Sorsa, come si chiamava, che non mi ricordo. Ah, Faveretta. Sì, Faveretta, purtroppo ero un bel po' di tempo che stavo lavorando, capito, per quello che... la prendono subito al volo. Prima la cosa più principale è quello lì. Ciao Marto. Ciao Marto. Capito tu. A Palenza si chiamava, no? Sì, già. Vecchio CB. Sì, ha detto che entra quando la gana. Forse quello lavora al rifornitore della fila, tu. Mi sembra che lavori alla fila. Mi pare, dici. Ma se trovagli anche il mio paese. È un lavoro. Adesso non so se padrone oppure se servo, boh, vabbè, quando vuole stare già lo sta qua, a che ora noi siamo qua. E allora, già sono meno di nulla. Anche venire con lo stesso. No, se vuole entrare già siamo qua. Ma ne pensa che è occupato. Penso sta lavorando, senz'altro, sta aperto, che lì, al fornitore, e lo sta sempre gente, per cui non è che... che lavoro per il baracchino, non so sarà. Eh sì, infatti è così. Ma della politica in generale. Vedremo. Se ne entra anche ad un altro. A che sera? California l'ho sentito. Devo essere ancora in tournée, devo essere. Allora, devo essere ancora in tournée. Le agende. Mi piace viaggiare, certo, e non so tutti se lo posso permettere. E fa bene, finché c'è vita c'è sempre speranza, no? E infatti, finché c'è vita c'è speranza, ma andare in tutti i lunghi. Pennazzo, è chiaro che se a casa già entra, ma deve essere pure questo. E se io sarebbe entrato? Sì, si farà sentire quando rientra. Sì, a settembre rientreranno là. A settembre cominciano a prendere il lavoro, sì. E per cui già li sentiremo qualcuno in più, là. Certo. Però ogni tanto qualcuno vecchio già si fa sentire. E infatti, ma si farà sentire lui. Quando è libero sarà in giro. Sto per permettere che sia da essere fortunato. Va bene. Stare tranquillo, giovane ancora per cui senza andarsene in giro. Se non si divisi, quando si divisi. Quando è vecchio. Infatti. Il mio campo è quando andare da per cui è tranquillo anche di là. Almeno va dove vuole. Sì, no, già è così. Ma così devi fare. Meglio Baedo. Oh, signor Giovanni, mi sono dimenticato di una cosa. A lei ha giubilato la patente. Già me l'ha fatto l'altro giorno, tanto. A piacere, tanto, almeno se un punto e l'altro riesci a trovare qualche cosa di buono, tanto. La patente è molto utile. Ma dai, vedi che malo mi sta strillando quello lì. Dai, ci sentiamo. Lascia acceso, sta strillando Gabriele che lo sto preparando a fare la doccia. D'accordo, Anto. Tranquillo, fai pure. È così, E almeno può trovare qualche posto anche per autista, sembra tanto. Infatti, che adesso io gli ha dato che ci vogliono autisti. Certo, e la patente è molto utile, sembra così, ma è molto utile per tante cose, certo, anche per il lavoro. Magari trovo lavoro, magari mi serve qualche autista, va bene, bisogna avere, sennò io vado la patente, cosa va a piedi, capito? Poi il moto, poi... Infatti, è così, va bene. Io. Andiamo. E forse andiamo bene, e forse va bene. L'apparecchio che avevo preso, che stavo facendo sulla guida, è importante che mi meglio così, vuol dire che già ce l'ha fatta. È meglio così, se ce l'ha fatta è meglio così. Capito? Già. Ma faccia a prendere la patente io, cazzo, perché prima era più facile, ma va, cazzo, ci sono anche segnali nuovi. E parecchi ce ne sono, segnali nuovi. Ah, ma come mai ogni tanto mi abbandono un coso e abbandono il gasso? Ormai guardate cosa le faccio, guarda, certe volte se capita i segnali da radio è chiaro che li guardo anch'io, perché ho visto che ci sono parecchi segnali nuovi e per cui che prima non c'erano, però su per giù noi sappiamo quali sono i segnali, dai. Infatti è così, purtroppo. Non è nato della Lega Baita a disegnare nubi. A me non mi conviene la Baita, non è che non conviene, no. Ah, se mi capisce di vedere, c'è la Baita così tanto per ammazzare il tempo, capito? E infatti è così, è così. Adesso prima ci voleva a quello della moto. Prima ho preso quello della moto, che avevo lo sorrello 125 della Gucci, e allora era la motorizzazione, era fino a mafiosi, che non aveva mai nessuno, che era uscita per la legge, allora la moto ce l'avevo già, però me la sono preso per il sicuro, e l'ho presa subito, l'ho fatto il 15, ma erano facili 15 da prima, perché erano pochi, capito? Ma io quella della moto ce l'ho avuta insieme alla patente B, sia per la macchina che per la moto, tutte e due assieme. Sì, era un periodo quando lavoravo da Montinezzo, allora là c'era in piazza d'armi, di fronte all'angolo di Via dei Mille, là c'era il corso tranquillo, gratuito facevo, e stavo prendendo, allora là ce l'avevo, facevo B, C e D, stavo prendendo, cazzo, sono uscito promosso in teoria, cazzo, ma non mi cazzo in pratica, cazzo. Sono principi, lo difficile sono principi. Allora, cazzo, ho preso quello del Puma, quella freccia catalana, quello Puma che andava all'aeroporto, cazzo, mi marci il gatto per carità, e ho grattato lì vicino a San Giuseppe e me l'ha fatto fare subito l'ingegner Fiori, cazzo, alla proce mi ha detto. Oh, io l'ho data su vicino alla cosa di la scuola su a Luna e Sole. Ah. No, vabbè, allora quel periodo che ho preso che stavo prendendo da C era lì piazza d'arte. Da C l'avevo preso poi da De Monti via Corazzuzza. Però lì stavo facendo in quei corsi C, D e D. Stavo facendo, capito? Sono uscito promosso in teoria, però in pratica sono stato bocciato con il Puma della freccia catalana, capito? E allora ho mollato tutto, no? Dopo tanti anni mi serviva la C, sono andato da De Monti, via Corazzuzza, in un mese ho avuto la patente. E subito quello lì, cazzo, mi ha fatto pagare 18 lezioni, e non mi ha fatto fare una lezione di guida, perché macchina non le avevano loro, era quello di Viale San Francesco, la BC, sembra che, però ce l'aveva. Cazzo, proprio allora dell'esame, che bisogna fare l'esame, se non male. Senza fare scuola guida, come faccio io? Cazzo, allora mi ha fatto io, mi ha fatto andare là, oggi in macchina un po' 42, allora che sono riuscito a non grattare nemmeno, però mi dava fastidio le marce che non entravano perché erano sincronizzate, non erano sincronizzate. Cazzo, però ci vero, tanta furgone lo usavo e per cui me ne intendevo un po', capito? Forse me l'ha dato a me anche per quello. Infatti è così, la mancanza purtroppo. Oggigiorno invece già sono più facili. Ecco, è più facile, io credo. Sono tante regole, toghe, non è tanto facile, no. Poi è tanto facile, prendere la patente grossa. No, tanto io stavo dicendo della guida. Sulla guida sono tanto facili adesso. È la teoria, Quello è, infatti. E adesso la pratica è facile, perché con la marcia sincronizzata, cazzo, adesso si cambiano da solo, ma prima non erano sincronizzati, si lo stavano attento con la casa, cazzo. È come grattare, l'ingegnere si mostrava subito. Sì, infatti, così. Si grattava tutto, si grattava allora. E poi credo che era un ingegnere più, ancora meno a me. Maledetto, la minima cosa, si mostrava, ragazzi, si faceva rispettare. Grattava, è tutto giambato. Mi passava la CIA, capito? Però lì facevo il corso gratuito via le mancine, capito? Ci volevano soldi per il fumo e per la moltrice del morto, capito? Un mese di nave moriani a fare scuola guida, capito? E tirano finire, la scuola era gratuita, però quando facevi la guida avevi pagare 20 minuti, capito? Sì. Cioè così infatti. Ti pagherebbe un po' di guida, 20 guide e ti pagherebbe pagare. Vabbè, a me è andata bene, la voce di Racchimi è andata bene, però sapevo il motore che ce lo sa, lo conosceva a memoria, con i freni misti specialmente, a memoria lo sapevo, per cui sono uscito subito. Infatti, la teoria è un pochino difficile, ma ci vedo che un bel giovane per la pagina ha fatto tutto canto. Sono femmine pure, ha visto che bravo, sono femmine e sono bravine pure. L'intelligenza ci vuole, è passione, se c'è la passione riesce a tutto uno, capito? Infatti se uno è bravo, infatti riesce a fare tutto, riesce a fare, in teoria che in guida. In teoria ci vogliono le scuole anche, bisogna fare le scuole anche, perché molti hanno provato le scuole per quello, perché lo hanno studiato. Infatti così, purtroppo. Bisogna fare così, bisogna fare, bisogna studiare un po' garello, non vedi che si esce. Vabbè, insomma, è un fatto, io chiudo. Ci sentiamo, insomma, un primo momento. Grazie alla chiacchierata. Alle prossime, ok? Ok, Gianmarino, ci risentiamo alle prossime. Ciao, Gianmarino.